Radio 24 presenta Il Sabato del Villaggio. Liberi consigli per il fine settimana. Ma buongiorno, ma ci siamo, ma come mi è mancata questa sigla. È tornato il sabato pomeriggio di Radio 24, il sabato del villaggio, dove, chissà se me lo ricordo, il villaggio è il nostro villaggio globale e questa è la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri, i nostri liberi consigli per il fine settimana. No, scherzavo, non me lo ricordavo, cioè l'ho scritto. Ovviamente nella terza ora, dalle 17 alle 18, il nostro consueto appuntamento con RadioTube insieme a Daniele Bellasio per tutta l'attualità della rete e dalla rete. Io vi tengo compagnia, come tutti i sabati, da questo sabato per la seconda stagione del Sabato del Villaggio fino alle 18 appunto, ma anche voi tenetemi compagnia. Due strumenti rapidissimi per contattarci: l'SMS 349-238-6666, il mio account di Twitter @MartaCagnola, l'hashtag sempre per chiusa Twitter del Sabato del Villaggio, lo dicevamo sempre un po' lungo, usiamo le iniziali, cancelletto ISDV. Ma scopriamo insieme i temi della prima ora che passeremo insieme in questo primo Sabato del Villaggio della nuova stagione di Radio 24. Una novità nel nostro Sabato del Villaggio: con noi ci sarà, ve lo svelo già, non ve lo svelo ancora perché è in studio qui con me, un personaggio amatissimo dagli ascoltatori di Radio 24 che sarà con noi il sabato pomeriggio. Ve lo dico dopo chi è. Nella prima ora avremo anche come sempre le tecnologie con Enrico Pagliarini, questa volta parleremo di Apple. Tanto cinema con tutte le novità in sala, ma iniziamo parlando proprio di cinema, ma andiamo a Venezia. Amore, una parola importante. Per me amore è una parola che non sento quasi più. Ti voglio. Dimmelo. Bene, allora ci vediamo lunedì. Ma come stai, bello? Anna, che il mago dove sviene? Spera. Estratto da Per amor vostro, che è stato l'ultimo dei film italiani in concorso all'ultima mostra del cinema di Venezia. Io ho preso vaporetto e treno questa mattina presto per essere in tempo in diretta con il Sabato del Villaggio. Mi sono fatta una scorpacciata di film in questa settimana, ma voglio parlarne anche con un super esperto. Io lo chiamo semplicemente il professore, perché per me è soprattutto un professore di storia del cinema, e che professore, ma anche molto noto al pubblico televisivo perché è un notissimo volto di Sky. Buongiorno professor Gianni Canova. Buongiorno Marta e buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano. Professore, io ti chiamo sempre così. Ma è così. No, vabbè. Come ti è sembrata questa mostra del cinema? Noi ci siamo, lo confessiamo, ci siamo incrociati un po' di volte, mi ha anche dato qualche dritta di qualche film che non era da perdere, ed è vero. Come ti è sembrata in generale questa mostra? Ma come tutte le mostre, discontinua, con alcuni momenti molto alti, altri momenti un po' più prevedibili, scontati e forse anche noiosi, e con un'affluenza di pubblico minore di quello che ci si potrebbe aspettare per una grande festival come quella di Venezia. Anzi, questo è uno dei temi su cui bisognerebbe forse interrogarsi maggiormente, perché io in questo momento sono un altro festival in un'altra località d'Italia, molto meno mediatizzato. Lo diciamo, sei a Camogli? Sono a Camogli al Festival della Comunicazione, agli incontri di Camogli c'è più gente di quella che non c'era agli incontri di Venezia. Sì, non tanto, devo dire, sale molto grandi a Venezia, ci sono o sale molto piccole a Palazzo del Cinema o molto grandi, quindi quelle molto piccole hanno la fila fuori per entrare, ma quelle molto grandi in realtà piene le ho viste molto poco. Anch'io. Quindi forse qualcosa va ripensato. Allora, sono i momenti del Toto Leone e quindi io sono ripartita presto, anche tu, non siamo rimasti per la premiazione per ragioni diverse, e allora stiamo un po' cercando di capire dai colleghi. Io non ho visto l'ultimo film italiano con cui tu hai aperto, su cui ho avuto da amici che ancora sono a valutazioni diverse, ma non negative, insomma. No, infatti devo dirti, a me è sembrato come si suol dire oggi, tanta roba, cioè tante tante cose, bianco e nero, effetti speciali, musiche, però con tantissime cose singolari, particolari. Poi magari avremo anche occasione di parlare la prossima settimana, perché esce subito in sala ed è una delle cose che mi piacciono di più dei festival, quando i film escono subito, perché altrimenti ne parliamo tra noi che li abbiamo visti, ma poi gli ascoltatori dicono il pubblico sì, ma non ha modo di vederli, certo. Questo è un altro problema di film anche importanti, belli, visti a Venezia, che escono a fine novembre, è troppo in là, si è perso tutto l'effetto, insomma, no? Anche verissimo, verissimo. Invece questa settimana è già uscito Bellocchio, la prossima settimana Gaudino esce subito, e questo mi sembra un ottimo modo per far valere quello che valgono i festival, far vedere subito i film. Allora, il Toto Leone, dalle ultime indiscrezioni, ci parla di alcuni nomi, ci parla di Sokurov, ci parla del clan di Trapero, l'argentino, e ci parla ad esempio anche di questo film molto poetico ma anche molto duro, cinese, Behemoth. Secondo te quali potrebbero essere i premi, così facciamo un Toto Canova? Ma guarda, fra i titoli io non ho visto il film cinese. Sokurov ha vinto a Venezia già un paio d'anni fa con Faust. E quindi un premio a lui. Se una delle funzioni dei premi e dei festival, dei premi e festival, deve essere quella anche di segnalare al grande pubblico autori e opere, come dire, bisognosi di questa promozione, perché altrimenti l'attenzione mediatica non andrebbe su di loro, mi sembrerebbe un premio sprecato. Insomma, Sakurov ha già vinto 2 anni fa, e questo è un film bello, importante, ma sicuramente non il capolavoro di Sakurov. L'altro film che tu citavi è pure un film interessante, ma non mi sembra particolarmente innovativo dentro il panorama complessivo della cinematografia contemporanea, per cui sarebbe un premio che va più alla diligenza che non all'innovazione. Tu per chi fai il tifo? Ma io faccio il tifo per il film che più mi ha colpito, divertito, perché cinema, perché non, come dire, è il cinema che parla contemporaneamente agli occhi, alla testa, alla pancia, al cuore, senza voler tirare in mezzo altre cose. Provo a indovinare, stavo dicendo, provo a indovinare 11 minuti. Ha molto diviso, a qualcuno è piaciuto, ma insomma io lo trovo bellissimo e sono d'accordo con quelli che ritengono che sia il film di questa mostra. Peraltro questo film, questo 11 minuti, che ne abbiamo parlato a Radio 24 in questi giorni, racconta 11 minuti di vita di alcuni personaggi, 11 minuti di vita quotidiana con un grande pathos, perché è un thriller, quindi si capisce che qualcosa dovrà succedere, e tutto succede in realtà negli ultimi minuti di questo film, che anche... e non si capisce però cosa succederà, e quando lo capisci resti talmente spiazzato che sei obbligato a rivedere tutto quello che avevi visto. E poi c'è un finale che non svelo, ma insomma, chi avrà la voglia di andare a vedere il film, guardi con non alzatevi, perché la cosa più importante succede proprio a ridosso dei titoli di coda, quando lo schermo apparentemente diventa cieco, ma in realtà ci lascia vedere una sola cosa, un solo dettaglio che dà un po' il senso di tutto il film, e lo dà con una potenza anche teorica, che credo sia il più grande omaggio al cinema e al potere del cinema nella società dei nuovi media che io abbia visto a Venezia. Sì, devo ma dire non un... dico altro perché... No, è un film per il quale non si può neanche mangiare i popcorn, nel senso che se mangi i popcorn ti distrai e metti la mano nel bicchiere, guardi il bicchiere, hai già perso un pezzo del film. È questo il cinema. Poi molti mi dicono: ah, ma non ci sono temi sociali, non ci sono i problemi. Ma chi l'ha detto che il cinema cioè, non è il cinema della realtà? Certo, è cinema, che a me piace anche per questo. E sai cosa spesso... io trovo che i film italiani, se posso ecco, sono curioso di sapere, fossero ben scelti, ben selezionati, e io fino all'ultimo ho sperato, spero che qualche premio vada a Marco Bellocchio, perché questo è un grande film. Bellocchio non ha mai vinto nulla a Venezia in 50 anni di carriera, quest'anno sono i 50 anni dei pugni in tasca, e forse un riconoscimento a uno dei grandi maestri, secondo me il più grande regista italiano vivente, Bellocchio, oggi sarebbe più che meritato. Io poi ho amato anche il film di Guadagnino. Magari una Coppa Volpi per Ralph Fiennes. Sì, che è un personaggio con un'energia. No, noi poi l'abbiamo premiato, come tu sai, io ero nella giuria che ha assegnato il premio per la miglior colonna sonora, e abbiamo dato il premio per la miglior colonna sonora a uno l'abbiamo dato a Equals, che è questo film distopico su un futuro un po' alla Gattaca, con una partitura elettronica di Apparat molto minimalista ma molto capace di costruire questo mondo del tutto basato sulla deprivazione emozionale percettiva. E poi abbiamo dato un premio a Guadagnino per la colonna sonora di Big Splash, dove c'è non soltanto un uso straordinario del repertorio che va dai Rolling Stones a Verdi, ma c'è anche il riutilizzo di alcuni, per esempio c'è tutta una scena madre del film, è girata avendo come colonna sonora una partitura di percussioni fatta soltanto con i bidoni dell'immondizia. Verissimo. Come peraltro era in un celeberrimo brano di Rolling Stones di cui discutono i personaggi durante il film. E sarà quindi mica stato, professore, Emotional Rescue, questa qua. Qua effettivamente la scena in cui Ralph Fiennes, che nel Bigger Splash di Luca Guadagnino interpreta il ruolo di un produttore discografico che ha lavorato anche con Rolling Stones, lo diciamo, quando canta e balla in questa scena è pazzesco. È strepitoso, sì, è uno dei momenti alti proprio di cinema che abbiamo visto a Venezia quest'anno, sei d'accordo Marta? Io sono d'accordo, a me il film di Luca Guadagnino è piaciuto tantissimo quasi fino alla fine, e poi la fine come tanti ho detto, no. Però il problema è che appunto questo film non esce subito. Imperfetto, è un film imperfetto, ma la bisogna anche amare l'imperfezione. È un film, appunto, fino a quasi, se fosse stato perfetto fino alla fine, diventava una cosa quasi disumana. Invece ha questa umanissima imperfezione, per cui nel finale sbanda e capisci che non sa come chiudere questa storia. E però gli vuoi bene perché una storia così era davvero difficile da chiudere. Ma insomma, queste sono poi mie. I miei deliri personali. No, devo dirti che appunto un peccato è che aspettando appunto i premi, perché la concorrenza secondo me di Christopher Plummer in Remember è molto forte, però magari arriva qualcosa appunto per Ralph Fiennes, speriamo che oltre al Soundtrack Stars Award che gli avete tributato possa arrivare qualcosa anche questa sera. Ti faccio una domanda proprio in generale sui premi, perché sai cosa succede spesso? Mi sento dire dagli amici o dagli ascoltatori, dalle persone che frequento, sì, però sai, nei festival del cinema vincono sempre quei film russi, cinesi, bulgari, noiosi, non c'è mai una commedia, qualcosa di divertente. Tu sei favorevolissimo alle commedie, sei anche molto impegnato a diffondere il verbo dell'importanza cinematografica della commedia. Ci vorrebbero più commedie nei festival? Ci vorrebbero più commedie nei festival, ci vorrebbero giurie che danno i premi non a se stesse, ma che si rendono conto che, come dire, se ha senso ancora fare i festival del cinema e dare i premi ai film è per allargare il pubblico del cinema. Se tu dai i premi a film che il pubblico a me è capitato più volte con gli ultimi due film premiati a Venezia di essere quasi aggredito da spettatori che uscivano dal cinema antico di Milano, che mi dicevano: ma com'è possibile che voi critici amiate questi film, non verremo più a vederli, non faccio i titoli, non faccio nomi, ma insomma sono perché sono film bellissimi, però forse bisognerebbe distinguere, cioè dare un premio a un film più sperimentale, più di ricerca, più per addetti ai lavori, e un film invece da segnalare al pubblico per dire vai a vedere questo film e ritrovi il piacere del cinema, perché il cinema non è punizione, non è quaresima, non è penitenza, il cinema è festa, il cinema è gioia, questo deve essere, questo per questo io per esempio ho dedicato la mia vita al cinema, perché mi fa godere. Ah, che bello! Non puoi dire andate a vedere dei film che sono, io riesco anche a godere, come dire, degli ultimi leoni d'oro, ma non è così che funziona per il grande pubblico, non puoi proporgli sempre solo dei film penitenziali. A volte ho come l'impressione che le giurie assegnino i premi non per segnalare il valore di un film al grande pubblico, ma per far vedere quanto sono belli, fighi, eretici, controcorrente, anticonformisti i loro giurati. Sono d'accordo con te, ci vorrebbe veramente anche qualcosa che possa avvicinare il pubblico non solo al cinema ma anche ai festival, tornando al punto di partenza, che appunto questa Venezia era un po'... questa è la battaglia che dobbiamo fare nei prossimi mesi. Ah, che bello, che bello. Io però voglio intanto, prima di salutarti professore, dare il benvenuto a una persona che sarà con noi nei nostri sabato. Io sono un po' emozionata, sono molto contenta di tornare a lavorare con lui, non diciamo dopo quanti anni, perché se dobbiamo barare sull'età non diciamo dopo quanti anni torniamo a parlare insieme in radio. Buongiorno a Davide Paolini, il gastronauta, sarà sempre con noi. Bene, grazie, grazie del benvenuto. E anch'io amo la commedia. Ah, amo bene. La commedia e il cinema è divertimento, è godimento, giustamente come il cibo. E quindi Woody Allen in tutte le salse. Bello, mi piace Woody Allen in tutte le salse. Professor Canova, ci viene a trovare una volta e facciamo una cosa tra cinema e cibo e ci divertiamo un po'? Ci viene a trovare in radio? Vengo a trovarmi, ma posso fare una domanda a Davide Paolini? Ah, ne parliamo certo, poi. Certo. No, perché Davide, tu ci devi spiegare il segreto per cui i giudizi che date voi critici gastronomici sono inappellabili e i giudizi che diamo noi critici cinematografici non ci crede nessuno. Ma vengo a trovarmi, ne parliamo. Va bene. Mi piace, mi piace il tema di dibattito. Potremmo discuterne di questo, sicuramente. Mi piace moltissimo. Grazie professor Gianni Canova per essere stato con noi. Allora ti aspettiamo in radio. Arrivederci. Straordinario, abbiamo già un tema di discussione. Benissimo. Però Davide, ti do l'appuntamento tra qualche istante, perché è il momento delle informazioni per chi sta viaggiando e sono tanti il sabato pomeriggio. E poi abbiamo un argomento, vabbè, gustosissimo. Non vedo l'ora, devo farti un sacco di domande, sono molto curiosa. A tra pochissimo. Il sabato del villaggio. E rieccoci insieme con il sabato del villaggio dopo una scorpacciata di cinema. L'abbiamo anticipato, finalmente parliamo anche di uno dei piaceri più belli della vita e del fine settimana, che è il cibo. E per introdurre il primo tema di questa conversazione con Davide Paolini, che sarà con noi tutti i sabati, io ho scelto appunto un estratto da una commedia, eccola qua. Ma se vado in America, dovrò imparare a parlare con un impeccabile accento americano per non svegliare i soliti sospetti. Mi trovi la più brava consultante di accenti di tout le monde. I would like to buy a hamburger. Aula Dubai Hamburger. I would like to buy a hamburger. I would like to buy a hamburger. No, no, no, let's break it down. Hamburger. Hamburger. Hamburger. Hamburger. Hamburger. Come here. Ham. Ham. Burger. I would like to buy a hamburger. I would like to buy a hamburger. Parliamo di hamburger, un po' da questa figli degli hamburger, degli ex Otago, ma soprattutto da questo hamburger della Pantera Rosa 2006, straordinario, con Steve Martin. Vedevo dall'altra parte del vetro Andrea Roccabella che rideva di fronte a questo hamburger. Davide, parliamo di hamburger, ma cosa è successo che sono tornati ormai per fare il soprattutto il pranzo, ma anche la cena, posso dirlo un po' fighetta, si va a mangiare l'hamburger chic, ma come mai? Beh, perché sono nati gli hamburger gourmet, sono nati gli hamburger degli chef 3 stelle, quindi è diventata una tendenza ormai diffusa. Pensa che solo a Milano si parla di 90-100 hamburgerie, quindi cresciute negli ultimi tempi. In fondo l'hamburger non costa tantissimo e per molti è un pranzo completo, però devo dire che c'è hamburger da hamburger, perché insomma non tutti gli hamburger sono uguali, non tutti gli hamburger hanno la stessa carne, lo stesso pane, gli stessi contenuti, sono cotti alla stessa maniera, quindi sicuramente anche qui c'è da fare una critica a certi hamburger, magari promuoverne altri. Quindi le caratteristiche di un hamburger devono essere tante, perché appunto da cosa scopriamo se stiamo mangiando qualcosa di buono? Anche perché sai, con tutti questi locali super carini, magari il locale è super carino e super di moda, ma vogliamo anche insomma, ma sai, la qualità della carne è fondamentale. fondamentale. Fondamentale non deve essere magra al 100%, deve avere anche un po' di grasso, perché nella cottura il grasso dà il gusto. Il pane deve essere morbido, però sopra deve essere rigido sotto, perché quando tu lo metti in bocca, se è morbido sotto ti sprezza via, come ultimamente ho visto in uno spot sì, pubblicitario di un film, tra l'altro. E quindi, e poi non si deve sbriciolare il pane, questo è fondamentale, deve essere leggermente tostato. E poi anche la scelta del formaggio è importante, non deve essere un formaggio stagionato, ovviamente si deve leggermente sciogliere. Quindi ci sono hamburger, come dicevo oggi. Poi è fiorita la moda degli hamburger vegani, gli hamburger vegetariani, gli hamburger al pesce, gli hamburger a poche calorie, gli hamburger con le canne pregiatissime. Ah, io ne ho mangiato uno, sono stata prima delle vacanze al mercato metropolitano, perché qui a Milano c'è questa iniziativa che hanno fatto un po' in occasione di Expo. Una grossa area per chi dovesse venire a Milano che fosse a Milano, insomma, una grossa area nella quale che è stata attrezzata con una serie di, come dire, camioncini di street food, sì, bancarelle, e ho mangiato un hamburger di carne, mi dicevano, pregiatissima. Sì, appunto, come ti dicevo, c'è la chianina, c'è la podolica che ora sta venendo fuori, c'è poi la wagyu, che è questa carne pregiatissima giapponese che costa l'ira di Dio, e quindi un hamburger fatto con questa carne deve costare moltissimo. Non dimentichiamo che ci sono degli hamburger negli Stati Uniti e in Francia che costano oltre 200 euro. Ce n'è anche uno a Milano, perché mette il foie gras dentro, non costa 200 euro, ma quasi, insomma. Bisogna essere però degli appassionati di hamburger, certo, per prendere proprio quello, ad avere a disposizione quel budget. Io una volta sono stata in un locale molto carino milanese, mi hanno servito un hamburger smembrato, cioè sul piatto mi hanno messo, anche quello succede ultimamente. Sì, quello succede specialmente nei ristoranti, ma se vuoi io ti do in giro per l'Italia alcune chicche. Io segno subito. Allora ti do a Torino e a Rivoli Mac Boon. Ecco, Mac Boon è stato l'unico in cui McDonald's non si è potuto appellare, perché è una parola in dialetto torinese che vuol dire che buono. E qui c'è un'agri hamburgeria che fa dei panini, fa degli hamburger straordinari, perché diciamo che tutto è controllato dall'allevamento fino in fondo, quindi c'è carne biologica, e questo è, secondo me, c'ha vari tipi di hamburger, è un posto da visitare. Oppure un hamburger per famiglia, io lo vedo in alcune macellerie, ma dove si mangia anche, ad esempio ad Arzignano ci sono i fratelli Damini, che è una macelleria che fa il hamburger, lo puoi mangiare anche lì, e questo secondo me è un altro hamburger molto interessante. Oppure a Romanengo, provincia di Cremona, c'è un altro posto dove, diciamo, sfornano degli hamburger incredibili, alla macelleria Cazzamali. E poi, se si vuole invece un hamburger da gourmet, io ne ho scelto uno per oggi, è Pisacco. È lì che l'ho mangiato, quello smembrato. Pisacco in via Solferino è uno degli hamburger che ha inventato uno chef importante milanese, Andrea Bertone, e poi l'ha portato in questo locale. Quindi diciamo che ce n'è per tutti i gusti, come si suol dire. Beh, bello, mi piace molto, e poi secondo me è un ottimo punto d'incontro tra un pranzo informale e la possibilità di mangiare qualcosa di buono con i buoni consigli. Guarda, io gli indirizzi che ti ho dato, si parte dai 6 euro e si può arrivare ai 16. Quindi insomma si può mangiare un hamburger decente a un prezzo abbordabile, come si dice. Molto molto contenta. Allora Davide, per ogni settimana noi ti chiederemo dei consigli, già abbiamo cominciato a dare dei consigli pratici, e sono molto contenta che gli ascoltatori ci stiano scrivendo al 349 238 6666. Ismaele ci suggerisce Goss a Bergamo, io non ci sono mai stata, ma me lo segno, poi lo provo, che abito abbastanza vicina. E Ulisse invece dice che è contento che tu sia il sabato pomeriggio, perché dice una collocazione migliore, perché evidentemente l'ascolta adesso, quindi Ulisse tutti i sabati, così sei più comodo, e c'è Davide Paolini con noi. E poi vi ricordo anche il nostro podcast radio24.it, anche perché così, se non riusciamo a prendere nota di tutto, possiamo riascoltare la trasmissione. Consigli per questa settimana, che tu hai scelto una gita, vabbè, sì, è ancora una bella stagione, si può andare in gita. Sì, domenica al lago, no? Lo dice anche la canzone. Allora, domenica al lago di Garda, sponda veronese, partenza da Valeggio. Da Valeggio dove si può fermare a mangiare dei tortellini straordinari, al ristorante La Borsa. Ecco, qualcuno dirà, ma come, i tortellini a Valeggio? Sì, perché a Valeggio in tutta la zona c'è una grande tradizione del tortellino che nasce da una storia d'amore in cui un soldato, un tenente e la sua amata, insomma, hanno una vita molto controversa, molto combattuta, poi alla fine si lasciano, lei lascia un fazzoletto annodato per il suo amato, e da questo fazzoletto annodato nasce il tortellino di Valeggio, che ha un ripieno di carne leggermente diverso da quello di, diciamo, bolognese, perché manca la mortadella dentro. Comunque è sempre valido. Poi salendo si può, ecco, vicino a Valeggio c'è Borghetto, lo consiglio perché è un posto straordinario, è uno veramente un posto romantico, mentre l'altro è un posto da mangiare da famiglia, questo è un posto romantico, cioè si va all'antica locanda ma si sente il rumore dell'acqua in maniera incredibile. Poi salendo ancora a Bardolino, arriviamo a Bardolino. Beh, lo dice il nome stesso. Bardolino è un vino molto noto, è un vino che io consiglio da assaggiare soprattutto d'estate, ovviamente anche d'inverno, servito molto fresco con il pesce, un rosso con il pesce. Sì, io amo molto il rosso con il pesce, ma questo è veramente un consiglio giusto. Nasce, diciamo, da un uvaggio che ricorda molto da lontano l'Amarone, che diciamo che è un fratello minore, però sicuramente un ottimo vino. A Bardolino io consiglio un locale tenuto da donne, il Giardino delle Esperidi. Women power, bene, contenta. Dove c'è una straordinaria carta dei vini. E lì vicino c'è un posto che io ho scoperto tanti anni fa, un genere alimentare a Colmasino, dove fanno una colomba. Ancora siamo molto lontani da Pasqua, però chi prende nota poi può andare, e da un genere alimentare che si chiama Condolini, devo dire, lo consiglio perché vale la pena. Poi saliamo ancora, arriviamo fino a Malcesine, no, anzi facciamo una fermata prima al castelletto di Brenzone. Sul porticciolo c'è un ristorante che si chiama Il Pescatore, dove c'è un signore, il patron, che si chiama Parisi, la moglie, la cuoca, che è veramente un'enciclopedia vivente dei pesci. Oh, quindi che bello. Può raccontare, può narrare, ma può anche svelare tutti i segreti del pesce. Qui si mangia un ottimo pesce di lago, ovviamente, quindi lavarello, coregone, carpione. E poi saliamo ancora, arriviamo fino in cima. Andiamo a Malcesine. Andiamo a Malcesine, dove Malcesine ha un centro storico veramente molto bello che si può passeggiare ciottolando. Ho sentito questa cosa che più volte gli abitanti la nominano. E lì si può andare a cena da un ristorante che si chiama La Vecchia Malcesine di Leandro Luppi. Ebbene, qui non si fa cucina tradizionale, ma si fa una cucina molto innovativa, molto moderna. Quindi diciamo che salendo in questo itinerario c'è il vecchio, c'è il nuovo, si beve bene e si vedono dei paesaggi davvero unici e molto belli. Quindi un viaggio al lago davvero interessante. Davide, non potevo non dedicartela. Domenica ti porterò sul lago, ci hai dato tutti i consigli per il lago di Garda. Dovevamo così concludere questa domenica bestiale. Quindi scendere al porticciolo che ho citato, perché si può attraccare. Che e quindi bello. Con la barca si può attraccare. Che meraviglia. Davide, allora io adesso, finita la trasmissione, prendo nota di tutto quello che ci hai consigliato. Lo posto su Twitter, @MartaCagnola, così abbiamo tutti i consigli del gastronauta. Io mi segno anche gli sms che sono arrivati, perché ci sono un po' di domande per te, così poi te le giro e magari, certo, la prossima settimana ci ritroviamo al Sabato del Villaggio, ti giro un po' di domande degli ascoltatori. Che bello questo nuovo appuntamento all'interno del Sabato del Villaggio. Sono molto orgogliosa. Bene, di grazie. Avere insieme a me Davide Paolini. Grazie. Al prossimo sabato. Al prossimo. Grazie Davide. Ciao. Noi ci ritroviamo tra poco ancora col Sabato del Villaggio. Il Sabato del Villaggio. Rieccoci insieme con il sabato del villaggio, tutti i piaceri della vita. Abbiamo parlato di cinema, che è davvero un grandissimo piacere della vita. Io sono molto contenta di parlare di cinema, lo faremo ancora tra poco con Franco D'Assisti, perché abbiamo parlato di Venezia, ma dobbiamo anche andare a sentire che cosa c'è al cinema questo fine settimana. Piacere della vita e anche piacere mio di avere con noi Davide Paolini nel sabato del villaggio. Abbiamo tanti argomenti uno dietro l'altro il sabato pomeriggio, e quindi rimanete sempre con noi, perché libri, consumi, cucina, insomma parleremo di tante tante cose. Adesso però è il momento di un altro dei nostri spazi più ascoltati e più amati del sabato pomeriggio di Radio 24. Lui è il nostro esperto di tecnologia, ma poco fa fuori onda ci confessava che è anche un esperto di tortellini, e visto che ne abbiamo parlato con Davide Paolini, e c'è qualcuno che dice: ah no, i tortellini sono di Castelfranco, quindi di Modena, non di Bologna, Enrico ci scrive. Però il nostro Enrico Pagliarini ha una sua teoria. Enrico, dove buongiorno, sei? Buongiorno, da una località segreta hai appena twittato. Località segreta, non vogliamo segreta sapere. Al punto che se ve lo dovessi dire poi vi dovrei uccidere, come dicono gli agenti segreti appunto. Nei film, esatto, al cinema. Scusa, ma cosa questa storia del tortellino che tu mi hai detto fuori onda? No, volevo fare notare, adesso io non voglio mettermi contro Paolini, perché poi Paolini dopo magari vorrebbe dire la sua sugli iPad e sugli smartphone, quindi non vogliamo. Però vorrei far notare che Castelfranco Emilia è una zona, adesso io lo dico così per ridere, contesa, allora, provincia di Modena ma diocesi di Reggio Emilia, quindi a Castelfranco Emilia Enrico... ci sono quelli che si sentono modenesi ma ci sono molti che si sentono anche bolognesi, quindi Enrico l'ascoltatore ha scritto una cosa, ma Enrico il conduttore di Radio 24 ci spiega tutta la geografia dell'Emilia Romagna. Caro Enrico, però per introdurre il tuo tema, come sempre io penso a una canzone, e questa volta, beh, visto che tra poco ci sarà un grandissimo evento tutto dedicato a lui, dedicato a questo cantautore, eccolo qua. Mi metto in tasca una piccola mela, mi metto in tasca una piccola mela. Enrico, tu la conoscevi questa vecchia canzone di Francesco De Gregori, Piccola Mela? Mi metto in tasca una piccola mela, ci sta, però? Sì, è perfetta, direi che dovrebbero tradurla in inglese e usarla per le pubblicità dell'Apple. Allora, Enrico, sì. Io questa settimana, gli ascoltatori lo sanno anche perché ne parlavamo prima, io sono a testé tornata da Venezia, quindi ho sentito che Apple ha presentato tutte le novità, ma non ne so nulla, quindi per cortesia raccontami cosa è Facciamo successo. Un breve ricapitolo. Allora, qua, a tutti diciamo agli autunni, anche se poi in realtà non è autunno, comunque a settembre Apple tiene questa presentazione stile hollywoodiano, con questa volta 7000 giornalisti e anche molti dipendenti invitati per presentare le novità. Allora, sappiamo che oramai da qualche anno nessuno dei grandi produttori di elettronica di consumo presenta novità dirompenti, però ci sono ancora novità interessanti. A proposito di piccola mela, Apple ci ha messo nei guai, perché tra le varie cose presentate è stato presentato un iPad gigante, che grande è quasi mela. 13... Esatto. Allora, prendete un foglio A4. Ah, ecco, spiegami bene com'è grande. Sì. È più o meno come un foglio A4. Un classico foglio di quelli che si usano per le stampanti, per le fotocopiatrici. Sì, ce ne ho davanti. Quindi, tanti. Vabbè, è bello, grande. Un iPadone, molto. Si chiama iPad Pro. Ah, ok. E qui cominciano i problemi, perché una delle domande che ci si fa negli ultimi anni è: ma compro il portatile o compro l'iPad? O compro comunque un tablet in generale, insomma, al di là dell'iPad, poi ci sono tablet di altre marche, Android o Windows. Questa domanda diventa sempre più difficile, perché questo prodotto, per esplicita affermazione di Apple, va a fare concorrenza ai computer portatili. Tant'è che, così come aveva già fatto Microsoft, è stata inserito come accessorio una copertina, sapete che, i tablet hanno le copertine per proteggere lo schermo, una copertina che diventa anche tastiera, che ha una tastiera molto, dicono, almeno poi la vedremo sul mercato e magari la proveremo, dicono molto, molto bella, molto performante. Quindi e qui dopo che lo proveremo mi dirai se poi ci compriamo ancora i portatili o se passiamo all'iPadone. Sì, ma la domanda sicuramente rimane, perché questo è uno dei grandi, dubbi. Diciamo che io oggi ho fatto questa, cioè da un po' di tempo ho fatto questa scelta. Per il mio uso in mobilità uso un tablet, senza dubbio. Per tutto quello che invece richiede produttività, quindi la scrittura prevalentemente, uso un computer quando sono o in redazione, in ufficio, in casa. Cioè un computer nel senso non di un portatile, sì, ma di un computer desktop. Computer. Sì, sì, un computer classico, normale, con il suo chassis, eccetera, eccetera. Direi che la scelta la si fa guardando quello che uno fa, nonostante i produttori dicano che con i tablet si fanno con la copertina che diventa una tastiera molte delle cose che si fanno con i computer, però se uno deve produrre molto, quindi scrivere molto, beh, direi che l'ergonomia di un computer portatile non è raggiunta ancora da un tablet. Poi vedremo effettivamente questo prodotto. Questo prodotto Apple dichiara di essere molto, molto potente, molto performante. C'è una novità Enrico, in tutto ciò. Sì? Ti chiedo se si sa già quanto costerà, perché insomma diciamo che i prodotti Apple non sono famosi per essere economici. Certo, questo chiaramente sarà un problema. Devo anche dire però che se lo confrontiamo con i portatili più sofisticati potrebbe essere competitivo. Allora, il prezzo dichiarato in dollari è $799. Bisognerà vedere, arriverà a novembre, bisognerà vedere poi a novembre il prezzo italiano, difficilmente sarà €799, potrebbe essere una cosa un po' più elevata, un po' di più, però lo vedremo. Dicevo, Apple dichiara caratteristiche effettivamente molto performanti, quindi una macchina molto molto molto bella. C'è una novità interessante, perché l'abbiamo visto già in tantissime altre presentazioni di altri produttori. Apple ha introdotto come accessorio, quindi parliamo sempre di un accessorio che va pagato a parte e costa $100, quindi anche qui non stiamo parlando di un prezzo basso, però interessante. Allora, una cosa che si chiama Apple Pencil. Ah, ho visto, cioè, un sacco di foto sui social network, su Twitter, tutti in fotografata. Cos'è? Allora, è una matita elettronica che, usata su questo iPad gigante, permette di scrivere, ma soprattutto disegnare. Quindi sicuramente molto adatta a chi o disegna per passione o disegna per professione, ma pensiamo anche a molti tecnici che magari fanno schizzi, che usano ancora oggi la matita o la penna sul foglio di carta. Chiaramente trasferire tutto ciò su un iPad o su un tablet elettronico crea tutti i vantaggi della possibilità poi di spedire quello che uno ha prodotto, archiviarlo, bla bla bla. Ci hanno provato in tanti altri. Apple promette una sensibilità incredibile di questa penna, con un tratto molto molto molto preciso, e molto probabilmente, visto che abbiamo già provato in altre occasioni la estrema sensibilità degli iPad anche solo con il dito, potrebbe essere una scelta. Non è sicuramente economica, però potrebbe essere un'idea per chi produce contenuti ma lo fa non con la tastiera, quindi non scrive semplicemente ma usa molto la penna e magari la matita per disegnare, e ci sono un sacco di professionisti oppure anche di appassionati che possono trovare questo molto molto bello e molto divertente. Al volo, prima di dare la linea di viabilità, ti chiedo se ci sono invece novità per quanto riguarda la telefonia, diciamo il front iPhone. Allora, è stato presentato il nuovo iPhone, esteticamente uguale, identico. Ci sono alcune caratteristiche nuove. Direi che la principale è, anche in questo caso, mutuata da altri prodotti, da altri produttori che hanno già presentato cose del genere. La stessa Apple lo aveva già fatto. Una cosa che si chiama 3D Touch, che vuol dire che quando tu metti il dito sopra al display e quindi tocchi e fai e vuoi comandare, che ne so, aprire un'applicazione, ci saranno alcune funzionalità che rispondono diversamente a seconda della pressione che uno esercita sul display, e quindi è una nuova funzione che potrebbe essere interessante. Era già stata utilizzata sia nel watch, quindi nell'orologio di Apple, sia nei computer portatili di Apple, ma anche altri produttori l'avevano utilizzata. Per il momento nessuno l'ha lanciata in larga scala, così come è presumibile saranno gli iPhone. Stiamo parlando di un prodotto che vende in un trimestre una roba come 70 milioni di pezzi, Il prodotto di maggiore successo di Apple rappresenta il 60% di Apple, l'azienda con maggiore capitalizzazione al mondo, quindi stiamo parlando di un prodotto vendutissimo in larga scala in tutto il mondo. Quindi per la prima volta questa nuova tecnologia, quindi che registra l'intensità del tocco del nostro dito, viene diffusa su larga scala. Enrico, ripeto, ci ritroviamo tra pochissimo perché ci sono le informazioni per chi viaggia, però poi ti voglio chiedere, torniamo alle buone abitudini, l'app da scaricare della settimana. Ci sentiamo proprio tra qualche istante, ci sono le informazioni per chi viaggia. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presenta Il sabato del villaggio. Intanto ci sono degli ascoltatori che mi chiedono che brano di Francesco De Gregori era Piccola Mela, che era il lato B di Rimmel un po' più famosa, Piccola Mela, che però io amo particolarmente. Niente, solo perché qualcuno mi chiedeva quale fosse la canzone dedicata alla mela che abbiamo ascoltato poco fa. Enrico, per concludere su Apple, mai detto TV. Sì, è stata ripresentata, perché è stata presentata parecchie volte negli ultimi anni, Apple TV, che è questa piccola scatoletta che va collegata al televisore e ci fa vedere tante cose. Allora, la novità è che questo nuovo prodotto ha un sistema operativo e ci si possono installare le app. Quindi l'idea di Apple è che nel futuro, cioè la TV del futuro, non sarà più la TV che conosciamo oggi, ma una TV che di fatto è piena di app. Quindi io, invece di cambiare canale, cambio app. Ah, questa perfetto. È un po' l'idea. A proposito di app, dacci l'app da scaricare subito. Allora, iniziamo la stagione. Allora, visto che noi viviamo anche di molti ascoltatori che dicono: ah, mi sono perso una trasmissione, vorrei riascoltare quella trasmissione, bla bla bla. Noi consigliamo di utilizzare le applicazioni sugli smartphone, sia quella di Radio 24 naturalmente, ma anche quelle che permettono di gestire i podcast, cioè gestire i file audio che uno scarica dal sito di Radio 24 o dagli store che ci sono in giro. Allora, per i prodotti Apple suggerisco l'applicazione nativa podcast di Apple, idem per Windows, c'è l'applicazione nativa sui telefoni Windows. Per Android ci sono una infinità di applicazioni. Questa settimana, ma direi che è la prima in classifica, me lo segnalano anche gli ascoltatori, Beyond Pod. È molto bella, fatta molto bene, permette di gestire una marea di programmi, quindi uno può scaricarsi veramente quasi tutta Radio 24. Ah, fantastico. Grazie Enrico, al prossimo sabato. Ciao, spero che tu sia in studio, chissà se sarà dal luogo segreto. Ascoltaci, perché adesso ti diciamo cosa andare a vedere al cinema questo fine settimana. Ok. E intanto non possiamo non parlare di questo film. Ba ba ba ba ba na na ba ba ba ba ba na na na na. Scusate, ma io adoro i Minion che cantano Banana, quindi non ho preso un estratto dal nuovo Minion, dal nuovo film dei Minion, ma questa canzone che a me piace da impazzire. Spero che appoggi questa mia scelta, Franco D'Assisi. Buongiorno Franco. Ma assolutamente, assolutamente. Beh, come si fa a non volergli bene, insomma? Tra l'altro gli vogliono molto bene anche gli italiani, perché sono ancora primi in classifica i Minions, anche per quanto riguarda i primi due giorni, diciamo, di questo lungo weekend, cioè da giovedì, quando sono uscite le nuove pellicole in sala, i Minions non hanno fatto una piega, sono rimasti primi in classifica lo stesso, e vedremo cosa succederà adesso alla fine del weekend. È un successo veramente clamoroso, forse anche oltre le aspettative, quello di questa sorta di un po' spin-off, un po' prequel della saga di Cattivissimo Me. A me è piaciuto, in tanti invece si lamentano, mi dicono: ah vabbè, ma sono andato a vederlo, era brutto. Anche Cristian in redazione è rimasto deluso, mi ha detto che non gli è piaciuto tanto. Tu? Beh, brutto proprio no, cioè è vero che la critica in generale, insomma, del giudizio su un'opera d'arte è assolutamente soggettivo, quindi ci sta tutto. Brutto francamente no, diciamo che guarda un po' subliminalmente anche a quello che possono provare spettatori un po' più adulti, ma ne abbiamo avuto così così un assaggio con quella canzone che hai fatto sentire, no? Che riecheggia nelle orecchie di chi ha magari oggi anche 60 anni, note piuttosto shuffle di quegli anni, e poi invece però io ho visto anche bambini divertiti da questi esseri buffi. Tra l'altro trovo che i Minions siano un'invenzione straordinaria, perché anche proprio sparigliano un pochino l'esistente per quanto concerne l'umanoide, l'extraterrestre, i supereroi. Invece qui sono degli esseri monocellulari, sembrano dei rossi dell'uovo, non so come dire, o delle patate, e insomma sono riusciti a dargli comunque un'anima sbimba, sbirula, ma sicuramente molto molto divertente. Beh, io ho una collezione di Minion sulla mia scrivania a casa, bellissima. Vabbè, ma non divaghiamo. Allora, dietro ai Minion, io stavo guardando il box office dei primi due giorni, corrono, non li raggiungono ovviamente i Fantastici 4. Franco, andiamo a vederli i Fantastici 4, cosa ci dici? Ma andiamo a vederli sapendo che non troveremo una risposta ai nostri quesiti cinematografici, cioè non è un film che cambia le cose, anzi non è venuto benissimo. Infatti in America è partito abbastanza tiepidamente ed è finito anche peggio, perché alla fine ha portato a casa una cinquantina di milioni di dollari, che per un film di queste ambizioni non sono niente. Tra l'altro anche il regista ci ha messo la sua, il regista Josh Trank, perché dopo un paio di giorni di questa partenza tiepida ha twittato che la colpa, se il film non era come voleva lui, era dei produttori che non gli avevano dato il final cut. E però se tu esci dopo due giorni già dicendo che il film non era come volevi tu, stai quasi dando ragione a chi dice che il film è molto molto tiepido. Ha un brand molto forte, però è un reboot secondo me molto debole. E comunque anche qui i Fantastici 4 confermano una fatica ad affermarsi nel mondo dei supereroi come clan, forse anche come si è detto, superati dagli X-Men, che sono i veri Fantastici 4, 5, 6, diciamo, della banda dei supereroi, no? Però quel collettivo lì funziona, questo qui, nonostante una storia bella grossa alle spalle, funziona meno, e al cinema è andata così, almeno fino adesso, con tutte le versioni che ci sono state. Sono curiosa di sapere se a te è piaciuta la Meryl Streep di Dove eravamo rimasti. Assolutamente sì, Ricky and the Flash, il titolo originale di questo film. Sì, ma sai, Marta, era uno della mia generazione, metti davanti allo schermo Meryl Streep e Kevin Kline, ha fatto bingo, cioè è chiaro che... A me è piaciuto anche Rick Springfield, però, perché è bello tosto, ci piace. Però sai cos'è? Che Meryl ha sempre avuto questa vena canora musicale nella sua carriera. Al Festival di Locarno, dove questo film è stato lanciato in Piazza Grande, abbiamo rivisto, tra l'altro con l'onore di vederlo insieme a Michael Cimino, Il Cacciatore, che si conclude con una canzone cantata da Meryl Streep, da una giovanissima Meryl Streep. Pensate a Mamma Mia. Ecco, Meryl Streep recupera l'aspetto rock e riesce a raccontare qualcosa che va oltre la storia di questa rock star che cerca di recuperare un rapporto un po' perduto per strada con la sua famiglia. È un film abbastanza colto anche in termini proprio di qualità, di espressività. E quindi un film che accontenta chi ci va con le orecchie, chi ci va col cuore e chi ci va con gli occhi per vedere attori che comunque sono delle vere e proprie icone della storia del cinema. Franco, ti chiedo un ultimo consiglio per questo fine settimana, l'ultimo minuto e mezzo insieme, che cosa andiamo a vedere? Ma guarda, mi ha incuriosito molto questo Selfless, con lo slash in mezzo, con la barra in mezzo, no? La storia dell'uomo anziano molto malato, malato terminale, che si sottopone a una sorta di operazione che una volta tanto non salva il corpo ma salva la coscienza, cioè trasferisce la propria coscienza del suo corpo a quello di un giovane uomo sano. Sono quei giochi, no, che il cinema si diverte ogni tanto a fare, che però secondo me hanno un fascino profondo. Qui gli attori sono di primissimo piano, Ryan Reynolds, Ben Kingsley, tanto per dare i due nomi più importanti. Ecco, questa potrebbe essere una sorpresa, un'alternativa in questo weekend, ovviamente a parte quello che arriva da Venezia, perché io voglio ricordare che la Rosa Purpurea fra poco alle 18 avremo ospite Marco Bellocchio in collegamento, e mancheranno ormai pochi minuti, quasi più che poche ore, all'assegnazione del Leone d'Oro. E il film di Marco Bellocchio, Sangue del mio sangue, secondo me è il più bel film che esce questo fine settimana, e lo consiglio davvero caldamente al nostro pubblico. Grazie Franco per essere stato con noi, ti aspettiamo ancora sabato prossimo con tutte le uscite del cinema e poi ancora più tardi alle 18 con la Rosa Purpurea. Ci sentiamo dopo, ciao Marta. E noi ci risentiamo tra poco, dopo il GR24 delle 16, sarà ancora Sabato del Villaggio. Il segnale orario vi è offerto da Gran Moravia e Burro delle Alpi di Brazzale. Fidati di chi conosci da 200 anni. Il sabato del villaggio. Rieccoci insieme per la seconda ora del sabato pomeriggio di Radio 24. Tornato da oggi il sabato del villaggio, dove il villaggio è il nostro villaggio globale, la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, i nostri liberi consigli per il fine settimana, insomma tutti i piaceri della vita del weekend. Abbiamo già parlato di un sacco di argomenti. Per chi si fosse perso questa puntata, tra poco il podcast su radio24.it. Nella terza ora invece, dalle 17 alle 18, il nostro consueto appuntamento con Radio con Daniele Bellasio, con tutta l'attualità della rete e dalla rete. Intanto il numero per i vostri sms è 349-238-6666, ma c'è anche il mio account di Twitter, @MartaCagnola. Sono molto molto contenta dei messaggi che arrivano. Devo ringraziare Mirko che ha scritto proprio ora: mi sono reso conto di quanto mi mancava il sabato pomeriggio trascorso in vostra compagnia. Sono contenta anche perché così, se mi scrivi su Twitter, mi fai compagnia anche tu. Insomma, ci facciamo compagnia a vicenda in questo sabato pomeriggio, la seconda ora. Di cosa parleremo? Beh, di libri dell'estate, un bilancio in attesa delle nuove uscite che tra poco affolleranno le librerie. Torna con noi Alessandra Tedesco. Poi un fenomeno assoluto, ne abbiamo già parlato, ma il suo successo aumenta. È in Italia, Violetta. Una novità che ci riguarda, grandi protagonisti per la domenica di Radio 24. Avremo con noi un ospite dalla voce magnetica. Ma prima torniamo ancora a Venezia per il grande protagonista della chiusura della mostra. Quante cose sono cambiate nella vita, quante cose sono sempre così. Quante volte ho pensato è finita, poi mi risvegliavo il lunedì. Quante volte ho pensato nella vita, voglio fare quello che mi va. Poi le cose mi sfuggivano tra le dita e arrivava la realtà. Bello questo pezzo, che bello, quanto mi è piaciuto questo, quante volte e quanto mi è piaciuto passare ieri una giornata in totale delirio vasco. Allora, mostra del cinema di Venezia, mentre teniamo le dita incrociate per Valeria Golino, abbiamo sentito anche in GR24, ottime, ottime chance per la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile alla mostra del cinema di Venezia, protagonista di Per Amor Vostro di Giuseppe Gaudino, un film, abbiamo detto, molto, molto, molto particolare. Lei è bravissima, quindi dita incrociate. Dicevamo però ieri, la folla, finalmente, a mostra del cinema di Venezia, che è stata un po' deserta, c'era tanta gente ed erano tutti per Vasco, che ha presentato il documentario Il Decalogo di Vasco. Questo andrà in televisione, non al cinema, il 26 settembre su Rai 3, e ha raccontato tanto di sé in questo incontro serale. Con lui c'era Vincenzo Mollica, un incontro serale molto bello con tanti fan. Ad esempio ha raccontato come nascono le sue canzoni. Le canzoni sono così, nascono da sole, sono come pietre. Sì, in realtà le canzoni sono come i sogni, ecco una cosa che volevo spiegare, che le canzoni nascono proprio, cioè io le prendo dall'inconscio, come nascono i sogni. Allora i sogni naturalmente si fanno di notte e se ne fanno tanti, così le canzoni chiaramente non è che vengono spesso, però sono della stessa pasta dei sogni, le mie perlomeno. Chiaramente non è che, cioè, devo essere in una dimensione un po' onirica, per cui non ci deve essere, insomma, devo essere da solo con la chitarra e devo avere voglia magari, sai, di, non so, di scaricarmi. Sì, insomma, se incontrassi una donna in quel momento non scriverei la canzone, ecco perché. No, voglio dire, come tutta l'arte, non è che sono io l'unico, vuoi da bere? Vieni qui, lo dico, sono sfumoso, amo te. E la musica, guarda, la musica è una grandissima consolazione, cioè il miracolo della musica e delle parole sono una grande potenza, insomma, ti dà delle grandi emozioni, provi delle emozioni talmente forti quando senti una canzone che ti, nella quale ti riconosci e che ti commuove, che a quel punto ti viene da voler bene anche a chi l'ha scritta, anche se non se lo merita per niente. Per questo vi dico, vi ringrazio molto per l'affetto, ma è perché non mi conoscete bene che mi volete così bene. Mi vorreste meno bene se mi conosceste di più. Beh, i suoi fan non sono d'accordo e dicono che è un maestro di vita. Lui però dice maestro di vita. Io Vasco no, maestro di vita proprio no. Maestro di vita, per l'amor di Dio, sai. No, io racconto quello che sento e poi, sai, quando uno racconta veramente, onestamente, sinceramente, si mette a nudo e parla anche delle proprie debolezze, perché io parlo delle mie debolezze nelle canzoni, nelle canzoni non mi vergogno di niente, se parlo con un amico non gliela racconto, per esempio, insomma, nelle canzoni invece no, perché secondo me nelle cose artistiche l'artista deve essere veramente onesto e sincero, altrimenti non deve neanche salire su un palco, capito? Altrimenti non fa dell'arte, so come dire, adesso non vorrei usare questa parola arte che è così importante, un po' così, però non fa dell'arte vera, fa qualcosa di compiacente, insomma, cioè, si fa qualcosa per compiacere, ecco. Vado al massimo, vado con fedele. Vado al massimo 1982, Festival di Sanremo, tra i tanti aneddoti che ha raccontato Vasco Rossi ieri sera alla Mostra del Cinema di Venezia, anche quello che successe nel 1982 al Festival di Sanremo quando si presentò con questa canzone, beh, davvero divertente. Ci voglio proprio vedere come va a finire. Ma sì, io guardavo Mick Jagger, capito, che è sul palco, non so, quando si muoveva, capisci, se per caso gli cadeva per terra qualcosa non si girava, perché la rockstar fa così, cioè se tu sei su un palco, no, e prendi contro qualcosa e cade, no, e tu ti giri, la vai a raccogliere, il messaggio subliminale che dai è quello di essere un imbranato. Se invece tu ti cade qualcosa, non ti giri e te ne vai, allora sei una rockstar. Quindi quando andai a Sanremo, perché poi questa è la storia, a Sanremo che io, perché io ero andato a Sanremo per fare il matto, cioè, perché pensavo, se faccio il matto qualcuno si ricorda di me, se canto una canzone non mi caga nessuno, insomma. Quindi avevo le idee molto chiare, anche se dicono, ero diversamente lucido, ma avevo le idee molto chiare. Quindi avevo questo microfono in mano e dovevo tornare indietro e infilarlo dentro. Se tornavo indietro pensavo tra me, dico adesso come faccio? Dico devo tornare indietro e cercare il buco per infilarlo dentro. Anche questa è un'operazione che se tu la fai sembra che sei allo zecchino d'oro. No? Allora io sono tornato indietro e ho pensato, beh adesso io me lo metto in tasca e poi lo porto al cantante dopo, no? Che era Christian che quasi piangeva dopo, perché allora a un certo punto io mi giro col microfono in tasca che c'aveva il filo, a un certo punto il filo finisce e il microfono vola via, ma io naturalmente, che sapevo come fare la rockstar, non mi sono girato e sono andato. E poi mi dicevano, ma sei matto, hai buttato per terra il microfono? E io dicevo, certo, che cazzo me ne frega, dico, tanto io ho già cantato. E lì, capito, è nato un po'. Beh, straordinario Vasco ieri, che ha veramente travolto la Mostra del Cinema di Venezia. Noi adesso diamo la linea al traffico e ci ritroviamo tra pochissimo ancora con il Sabato del Villaggio. Il il sabato del villaggio. E rieccoci insieme con il nostro sabato del villaggio. Lo sappiamo, parliamo sempre delle nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche tecnologia, piaceri della vita e libri. Oh, bentornata, bentornata anche Alessandra Tedesco. Riprende il nostro sabato del villaggio. Abbiamo letto per tutta estate, abbiamo fatto una bella scorpacciata di libri. Leggere ci fa venire voglia anche della nuova stagione, no Alessandra? Sì, tra l'altro guarda, sarà una stagione ricchissima, perché la maggior parte delle uscite, come dire, più importanti delle case editrici si concentrano sempre fra settembre e Natale, perché è il periodo in cui si vende, certo, vende di più. E quindi già iniziano ad uscire uno dopo l'altro quelli che saranno i capolavori del fine 2015-2016. Beh, però facciamo un bilancio, un piccolo bilancio dell'estate. Io ho sentito parlare tanto di un libro che, ti confesso, non ho letto. Qual è stato il libro più letto dell'estate? No, lei mi prende in giro, diciamo così, perché lei lo sa, ma Marta Cagnola lo sa, che io ho un'idiosincrasia profonda per le 50 sfumature di grigio. Guarda, non mi veniva neanche il titolo in questo momento. Però devo dire che il re indiscusso, anzi c'è stata, come dire, una classifica a metà, però uno dei re della classifica italiana è stato Mr. Grey, ossia le 50 sfumature di grigio, scritte sempre dall'inglese E.L. James, però viste dal punto di vista di lui, cioè questo rapporto sadomaso visto dal punto di vista maschile. Quindi quali erano i pensieri di Mr. Grey, di Christian Grey? Della serie Chi se ne frega. No, allora, beh, io ti ho già accolto con questa musica in tema del 50 sfumature. Sai cosa dico sempre io di questo libro? Che allora, io lo confesso, Grey non l'ho letto, rispetto moltissimo le appassionate, ma con grande amore. Però io dico sempre che siccome lui le presenta subito la mamma, non è un libro hot, ma un libro di fantascienza. Questa è una bella cosa, questa effettivamente è una bella cosa. Hanno sbagliato lo scaffale dove mettere, un libro quasi familiare potremmo mettere. Sai, tipo quando fai in televisione family, no? I film family, cinema family, noi facciamo libri family. Sì, Mr. Sì. Grey potrebbe essere, per me, adesso citerò l'Alessandro Milan del mattino, la carta costa. La carta costa. La carta costa. No, io... Però lo sapete, è proprio una cosa viscerale. Sapete quando prende un'antipatia? È un libro di cui si è parlato tanto, si sta ancora parlando tanto perché è in classifica, però io non ce la posso fare. Lo leggerò. Te lo prometto, Alessandra, per giudicarlo serenamente, secondo il mio metro di giudizio, lo leggerò. Però hai detto non l'unico libro dell'estate. Eh no, perché c'è stata quest'estate, come dire, una specie di battaglia. C'è stato un momento in cui possiamo dire che un altro libro ha sottomesso Christian il Dominatore. Ti do un indizio, visto che si tratta di un thriller, ti do un indizio. Ah, ma questo è un treno, quindi stiamo parlando della ragazza del treno. Guarda che indovinello difficile, vedi, che ti vedi, ho fatto. Ce l'ho fatta, era un giallo, l'ho risolto subito il caso, Veramente una Sherlock Holmes in gonnella. Allora, sì, La ragazza del treno è stato poi il romanzo che ha insidiato Mr. Grey nelle classifiche italiane quest'estate, se ne è parlato tantissimo. È un thriller psicologico, un po' alla Gone Girl, non so se avevi visto anche il film, insomma. Amato moltissimo, peraltro. Ecco, quindi è un po' di quel genere. In Italia ha venduto 300.000 copie e rapidamente la storia. Tu fai la pendolare in treno? No, io guido. Guidi la macchina, allora non puoi capire, perché i pendolari possono capire, perché la storia di una ragazza che si chiama Rachel, che in realtà fa una vita molto solitaria, anche un po' triste, non ha amici, insomma, ogni mattina fa lo stesso tragitto dai sobborghi di Londra per andare appunto nella City a lavorare, il suo lavoro triste, grigio, anche quello, insomma, sai, quando si esagera un po' dickensianamente. E lei guarda sempre dal finestrino. A un certo punto, siccome il treno si ferma sempre in ad uno stesso semaforo, dove c'è la veranda di una villetta, di una casa, dove una coppia fa sempre colazione all'ora in cui passa Rachel con questo treno. E lei si sente quasi affezionata a questa coppia, inizia a immaginare chissà che vita meravigliosa avranno, che storia d'amore, insomma inizia a fantasticare su questa coppia, finché un giorno succede qualcosa. Lei vede accadere qualcosa in questa veranda che sconvolgerà la vita di questa coppia, ma anche la vita della stessa Rachel. Ed è qui che inizia il thriller psicologico, di cui non vi possiamo dire di più, naturalmente. Certo, chi non l'avesse letto quest'estate lo può recuperare in attesa di queste grandi novità di cui parleremo, i grandi fenomeni del prossimo anno, del insomma, prossimo anno, fine. In attesa almeno del culmine natalizio. Sì, e poi tra l'altro della ragazza del treno stanno già girando un film, quindi questa sarà poi roba tua, quindi, andare a criticare la DreamWorks. Vanno letti tutti prima di vedere il film, anche per dire la classica frase, era meglio il libro. Era meglio il libro, come per me quasi sempre, anzi sempre meglio il libro. La ragazza del treno, Paula Hawkins, pubblicato da PM. L'altro, invece, abbiamo detto, l'altro reuccio dell'estate è stato Mr. Grey, pubblicato in Italia da Mondadori, scritto sempre dall'inglese E.L. James. Questi i libri dell'estate secondo le classifiche, ma Alessandro, ma il tuo libro dell'estate qual è stato? Vabbè, ti potrei fare un elenco infinito, però ti dico, innanzitutto ho riletto finalmente con calma Stoner e mi è cioè veramente, se non l'avete ancora fatto, leggetelo, fatemelo come favore personale. Stoner è un libro bello, pubblicato da Fazzi, è stato pubblicato tanti anni fa, ma in realtà poi è stato ripubblicato in Italia solo alcuni anni fa, è diventato un caso editoriale, fatelo. Però uno dei libri che proprio mi ha colpito nel cuore, che veramente vi consiglio, si intitola Riparare i viventi. L'ha scritto la francese Malice, credo si legga così, Malie de Kerangal. È una storia molto dolorosa, ve lo dico, ma raccontata con una grazia, con una tenerezza, con una capacità narrativa proprio che veramente fa venire i brividi. Appena ho smesso di leggere questo libro, ho avuto bisogno di silenzio. Accidenti. E quella è la sensazione che ti dà. Rapidamente la trama, un ragazzo, lo si capisce subito dalle prime pagine, giovanissimo, muore in un incidente stradale e la madre deve decidere se donare gli organi o meno. E si seguono le vite quindi della madre, il suo dolore, il suo strazio, eccetera, del padre, della sorellina, ma anche di tutta l'equipe che ruota intorno a questo possibile trapianto, quindi l'infermiere specializzato che deve informare la famiglia, parlare con loro, chi deve custodire i vari organi nel momento in cui verrà fatto l'espianto. Quindi è un romanzo doloroso ma pieno di speranza. Riparare i viventi, veramente ve lo consiglio. Lo consigliamo a chi voglia così riflettere un po' e... a chi voglia veramente di una grande emozione, di riflettere anche un po' sul senso della vita, perché è un libro che veramente fa riflettere sul senso della vita in maniera non scontato. Cioè una trama del genere avrebbe potuto dar vita ad un libro, insomma, così sdolcinato oppure molto melodrammatico. Invece qui c'è sempre un equilibrio nella grande capacità della scrittrice di descrivere le emozioni profonde dei protagonisti. Il dolore di una madre è diverso dal dolore e dalla solidarietà che prova, per esempio, l'infermiere o un'infermiera che è appena arrivata a lavorare nel reparto, insomma, di terapia intensiva, oppure dall'emozione del medico che sa che una persona sta morendo ma un'altra se ne può salvare. Accidenti, un libro tosto, un libro tosto, però ci hai convinto. Alessandra, è anche un sabato molto particolare questo. Sì, oltre a essere il sabato del villaggio, certo, è il sabato del campiello, perché questa sera a Venezia verrà assegnato il cosiddetto supercampiello, cioè la cinquina è stata già decisa, fra questi cinque finalisti si deciderà chi è il vincitore finale del campiello. Ricordiamo rapidamente chi sono i finalisti: Marco Balzano con L'ultimo arrivato, Sellerio, Paolo Colagrande con Senti le rane, Nottetempo, Vittorio Giacopini con La mappa, Il saggiatore, Carmen Pellegrino con Cade la terra, pubblicato da Giunti, e infine Antonio Scurati con Il tempo migliore della nostra vita, pubblicato da Bompiani. Ci aggiornerai nei giornali radio, quindi aspetteremo le tue notizie. Intorno alle 22 questa sera si saprà chi ha vinto il campiello del 2015. Che meraviglia, Alessandra, che sei tornata insieme a me al Sabato del Villaggio. Che bello che sia tornato anche il Sabato del Villaggio. Speriamo che siano tornati anche gli ascoltatori. Chiocciola Ale Teddina per trovarti su Twitter. Invece sì, per trovarti a Radio 24? Per trovarmi a Radio 24, ahimè, è finita l'estate. Quindi romanzi in valigia non c'è più. Ma il cacciatore di libri è sempre presente alle 6:30 di ogni sabato mattina per i mattinieri. E alle 22 in replica invece per tutti gli altri. E ovviamente il podcast, radio24.it. Podcast, veramente, come se piovesse. Grazie Alessandra Tedesco. Ciao Marta, ciao a tutti. Sono Maria Latella e la domenica mattina finora potevamo incontrarci in TV. D'ora in poi invece ci troveremo anche su Radio 24, ogni domenica mattina alle 10, per parlare di donne perfette, imperfette, aspiranti alla perfezione e di come ci vedono gli uomini. Vi aspetto ogni domenica mattina alle 10 su Radio 24. Il sabato del villaggio. Rieccoci sempre insieme con il nostro sabato del villaggio, i nostri liberi consigli per il fine settimana, 349-238-6666 per i vostri sms, chiocciola Marta Cagnola se usaste Twitter, ma c'è anche l'hashtag che è ISDV. Noi parliamo dei grandi piaceri della vita, ma anche dei grandi fenomeni. E c'è un fenomeno che non accenna a diminuire, anzi... Tutto questo è successo pochi giorni fa a Milano. Sentite queste ragazze, perché sono tutte ragazze che urlano Martina, Martina. Stiamo parlando di Martina Stössel, che è più nota come Violetta, ed è un fenomeno che non accenna a diminuire, anzi. Ieri sera c'è stata una grande serata all'Arena di Verona, un live. Siccome noi quando parliamo di Violetta ci colleghiamo sempre con lei, questa volta l'abbiamo disturbata al telefono, una mia carissima amica, ed è super esperta di questi temi, lei è il mio punto di riferimento ogni volta che parlo di questi argomenti. Buongiorno Silvia Gianatti. Silvia, buongiorno signora Marta Cagnola. Allora Silvia, io ho visto sul tuo Instagram una bella foto dell'Arena di Verona con la tua bimba, cioè hai portato la tua bimba a vedere Violetta. Esatto. La tua bimba quanti anni ha? Se inizia lunedì la prima elementare. Oh, che bello, che bello. Sì, quindi sì, anche tu inizi la prima elementare in pratica. Quindi anche inizio la prima elementare, sì. Quest'anno ho sdoganato Violetta anche in casa, anche in casa. Prima aveva solo le canzoni, ma quest'anno ho ceduto. Hai ceduto anche con live. Sì, hai comprato tutto. Anche gli astucci, diari e quaderni di Violetta? No, perché andrà a una scuola senza zaino, ma questo non c'entra. Ma ieri sera comunque ho dovuto comprare ovviamente un diario all'uscita. Mi ha fatto uscire prima dell'ultima canzone, perché avevo già messo avanti le mani avanti, se c'è troppa gente non compriamo. E quindi a metà dell'ultima canzone lei mi ha detto: mamma, andiamo. Ed eravamo i primi davanti al baracchino. A quel punto, senza più scuse, il diario di Violetta l'abbiamo portato a casa. Così si fa, così sì, si fa. Così. Beh, si fantastico. Fa. Quindi bambine, soprattutto femmine, ovviamente, di quell'età lì. Di quell'età lì. Sì, anche più grandi. Il pubblico, secondo me, la media è i 10 anni, perché poi le piccole piccole dell'inizio ora sono cresciute, per cui qualcuna di più grande inizia a vedersi, però sì, c'erano tante piccole. Poche superavano secondo me i 13 anni. Ah, ecco, quindi insomma è un linguaggio che dobbiamo imparare a parlare per le bimbe di quest'età. Tra l'altro un altro live farà domani sera all'Adriatica Arena di Pesaro, ho studiato. Pesaro, esatto, che poi è l'ultima data dell'Italia, per cui poi si fanno l'ultimo mese ancora in giro per l'Europa e poi ciao Violetta. Cioè, esatto, fammi capire, perché Violetta è stata una star di una serie televisiva. Tre stagioni. Però un fenomeno. DVD, live, dischi, appunto. Tutto, oggetti di qualsiasi tipo, forma e dimensione. Esatto, esatto, parla la mamma qui. Esatto. L'altro giorno conferenza stampa milanese, c'è andata per noi la nostra bravissima Federica Frola, che ha incontrato proprio Violetta, e sentiamo Violetta come ha spiegato a parole sue il fenomeno, l'essenza di Violetta. Eccola qua. Il personaggio tiene ese condimento especial que que en realidad soy yo, porque yo tenía 14 años, nunca tuve... Fin dall'inizio, da quando avevo 14 anni, quando ho iniziato a interpretare il personaggio di Violetta, ho messo molto di quella che è Martina, di quella che sono io in questo personaggio, perché ho iniziato veramente giovane, avevo solo 14 anni e quindi non avevo tutta questa esperienza di vita e cinematografica per poter creare un personaggio che fosse totalmente distaccato da come sono io. Quindi la realtà è che quella ragazzina di 14 anni non scompare mai, l'essenza rimane e spero proprio di non perderla mai. Tornando a te Martina, tu sei diventata un fenomeno, un esempio per le giovani. Che cosa significa esserlo e essere anche adesso di giovani donne che stanno crescendo, quindi? È algo muy lindo. È una cosa molto positiva fondamentalmente, perché sapere che la gente ci ama, ci segue per quello che portiamo loro è davvero bello, soprattutto sapendo che quello che mandiamo è un messaggio molto positivo. Lavorando con la Disney siamo sempre stati tranquilli che il messaggio che sarebbe arrivato alle famiglie sarebbe stato assolutamente positivo, che i genitori quando i loro figli si siedono a guardare Violetta sono tranquilli e sereni, perché fondamentalmente il messaggio è quello di lottare per i propri sogni, di valorizzare le amicizie, coltivare valori come la solidarietà, gli affetti, la famiglia e l'amore. E spero nel futuro, anzi desidero nel futuro, poter continuare a fare questo. Quello che mi interessa infatti non è solo preparare degli show, degli spettacoli straordinari con luci ed effetti speciali, ma proprio l'opportunità di poter inviare un messaggio che sia positivo alla gente, poter aiutare con le mie canzoni, con le mie capacità artistiche. Che por ahí más lo necesita, de poter transmitir un mensaje a través de mis canciones. Esta es una historia sin final. Empezó como un cuento y no acabará. Habla de pasión, de mi profesión. Es donde voy y quién soy. Io so che Silvia e le ragazzine hanno anche imparato, oltre ai messaggi appunto di cui ci parlava Tini, Violetta, a cantare in spagnolo. Cioè stanno diventando bilingue queste bambine. Sì, e tra l'altro ieri sera proprio cantavano, io ero già stata al forum a Milano e forse erano più piccole, non lo so. Comunque quando, come sempre, i cantanti lasciano cantare il pubblico, o al forum si sentiva meno, comunque non è che cantavano, ma non da concerto vero. Bene, nel giro di qualche mese sono cresciute. Sì, perché... non lo so, ieri sera era proprio l'Arena che cantava, ma in spagnolo. Ma incredibile. Ma stanco la più stupita, sì. Cosa pensi di questa cosa del messaggio positivo? Ovvio che lei lo debba dire, insomma, non, è inevitabile. Il messaggio di Violetta, istruzioni per l'uso delle mamme le cui bambine sono innamorate di Violetta? Sì, qua è sempre un po'... Allora, il messaggio è sicuramente positivo perché è vero che c'è di mezzo la famiglia, l'amicizia, l'amore per i propri sogni, inseguirli, lottare. Quindi questa parte c'è sicuramente. Poi... però essendo una telenovela ci sono anche miliardi di intrighi, di sotterfugi, di bugie, cose che magari una bimba di 10 anni può iniziare a decodificare, la mamma delle bimbe tipo la mia più piccole un po' di attenzione la deve mettere perché ci sono proprio giochi tra i personaggi che a quell'età, quando sono così piccole, non riescono ancora a capire anche solo il lasciarsi riprendere. Cioè, spesso lei mi chiede, ma perché non sono più fidanzati? Questo... Ha ragione! Perché si lasciano? Esatto. Cioè, a 6 anni l'amore è quello, il principe azzurro è ancora... Cioè, è sempre Disney, ma Disney fino ai 6 anni ti insegna che poi ti innamori di uno e quello per tutta la vita. In Violetta è un po' sì, un po' no, un po' torno. Poi alla fine sarà sempre lo stesso, però nel mezzo... c'è di tutto, per cui la mamma deve semplicemente guardarselo insieme, credo che l'unica risposta. Che bello, mi piace questa cosa. Tra l'altro, tant'è che ieri sera cantavano, sì, anche i genitori. Anche poi tutti tu le sai, giuro che non te la faccio cantare, ma le sai tu? Io tutte. Infatti, ieri sera lo sforzo peggiore è stato non mettermi, ho anche le mie preferite ormai, perché in macchina ascoltiamo quasi solo quello, per cui uno si abitua e quindi dovevo tenermi molto. Sì. Allora, serrate. Fenomenale. Ma a Milano grande notizia, perché abbiamo detto serie TV, ma adesso Violetta diventa un film. Notizia clamorosa che ha dato proprio la stessa Martina stasera. Esatto, notizia clamorosa. Che altro? Come puoi vedere, la nuova vita di Violetta. Questa è la sorpresa, la nuova vita di Violetta. Sì, realmente molto felice, molto contenta per... per questa opportunità. Questo film è per me veramente una grandissima opportunità, è la prima volta che mi cimento in un'esperienza cinematografica, quindi è veramente una nuova avventura ed è bellissimo per me perché amo moltissimo il cinema e girare un film con un regista così importante, così bravo come Juan Pablo lo rende ancora più bello. Il titolo, come vedete, è Tini, che è il mio soprannome, sono conosciuta così da tutti, la mia famiglia mi chiama così fin da quando ero piccolina, i miei amici alla Disney, i miei fan mi chiamano Tini. Nel film si potrà vedere, questo è molto interessante, come la mia vita reale è in realtà molto simile a quello che si vedrà nel film. Mi vita non va a stare tan lejos della realtà che si va a vedere in questa película. Descubrí que soy tan parecida a ti. Silvia, ti ha interrotto Martina spiegando del film. Mi dicevi di questo film che arriverà nel 2016, c'era ancora di tempo? Ma è, se ci pensate, un'operazione geniale, perché qui Violetta è finita, ma Martina, come fenomeno, perché alla fine le bimbe amano lei, che poi sia Martina o Violetta, ormai non... è un tutt'uno, e quindi invece di aspettare che lei inizi a fare la cantante solista e diventi Martina, la Disney ha fatto Tini. Ah, poi non certo, so cosa vedremo, cioè, però perché Tini è il soprannome fusione dell'attrice. Esatto, e per Beh. Cui si crea questa... cioè, comunque sarà sempre Violetta, sarà sempre Tini, e le bimbe l'ameranno qualsiasi cosa faccia. È straordinario. Senti, io se non ho Silvia Gianatti che mi spiega tutti i fenomeni, io non capisco. Pensa, volevo telefonarti l'altro giorno, volevo mandarti un WhatsApp da Venezia, perché c'erano tutte queste ragazzine che di fronte all'Excelsior cantavano le canzoni di Violetta. Ho capito perché avevano in mano, dico, ma cosa ci fanno a Venezia? Ma ho scoperto, perché c'era il fidanzato. Ma pensa, ma l'ho scoperto anch'io, cioè il protagonista di uno dei film che tra l'altro sono favoriti, chissà cosa succederà stasera, è Il Clan di Pablo Trapero, cioè il protagonista, l'attore, è il vero fidanzato di Violetta, è il vero dell'attrice. Fidanzato di Violetta, esatto, sì, Peter Lanzani, che appunto sta con lei già da un po', e ora sta diventando anche pubblico, perché appunto anche lei stessa posta foto su Instagram, cosa che magari prima non faceva. Adesso invece, poi l'abbiamo vista comunque anche foto appunto red carpet ufficiali. Beh, ragazzi, vabbè, è telenovela nella telenovela, esatto. Un fenomeno che non accenna a diminuire. Questo sì. Le fan non è che si sono infastidite, perché comunque Violetta sta con Leon ed è solo lui, e invece Martina può stare con chi vuole, quindi è proprio un amore, non sempre è concesso il fidanzato fuori dalle scene, cioè c'è confusione, perché per le piccole Violetta è Violetta, quindi certo. Potrebbe, e invece questa cosa è accettata, Violetta sta con Leon, ma Martina può stare con... Sì, è un mondo meraviglioso. Beh, straordinario. Infatti io lo dico agli ascoltatori, Silvia Gianatti è la mia guida in questo mondo che io non conosco e che lei conosce alla perfezione. Silvia, ti chiedo solo una cosa al volo, sì. Un flash. Dopo Violetta c'è già qualcosa che dobbiamo tenere d'occhio, perché appunto la serie è finita. Sì, ma direi che ancora per un po' possiamo comprare Zaini a Sicilia di Violetta. Non è ancora arrivata qui. Straordinario, zaini, diari, quaderni, astucci. Grazie Silvia Gianatti per essere stata con noi. A te, grazie mille. Grazie Silvia, un abbraccio alla bimba che sa tutte le canzoni di Violetta. Noi ci ritroviamo tra pochissimo per l'ultimo blocco del Sabato del Villaggio. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presenta Il Sabato del Villaggio. Ultimo pezzettino del Sabato del Villaggio per questo primo sabato pomeriggio in diretta nella nuova stagione del palinsesto di Radio 24, però c'è ancora un'ora, quella di Radio Tube, vi vedo già, intravedo perché ho tolto gli occhiali, Daniele Bellasio di là dal vetro, però vorrei parlare, prima di darci alle nostre notizie della rete e dalla rete con la terza ora del Sabato del Villaggio, vorrei parlarvi di qualche novità che riguarda il palinsesto di Radio 24. Poco fa avete sentito lo spot di Maria Latella, che parlerà di donne la domenica mattina, ma io voglio parlare di un personaggio che ci terrà compagnia la domenica pomeriggio. Un po' di solidarietà, no? Io il sabato pomeriggio qua, lui la domenica pomeriggio a Roma, quindi abbiamo i pomeriggi del weekend, noi li abbiamo occupati fino alla fine della stagione. Ma vorrei fare un passo indietro, di qualche ora. C'è una trasmissione televisiva che io adoro, gli ascoltatori lo sanno, sono pazza di questa trasmissione televisiva, che non ho visto appunto perché ero fuori casa in questi giorni, ma recupererò al più presto questo pezzettino, me lo sono visto però stamattina. A tale quale show è successo questo: la Mission Impossible, Vattene amore, Nietta e Amedeo Minghi. Vattene amore, che siamo ancora in tempo, crediti no, spensierato sei contento. E Nietta e Amedeo Minghi erano Gabriele Cirilli e puntini puntini. Buonasera Pino Insegno, buonasera Pino. Buonasera. Che meraviglia, ma eri uguale. Ero uguale a Pino Insegno, lo dico dall'altro anno. Sette ore di trucco per assomigliare a me stesso. No, ma che guarda, è stato il tormentone vincente dell'altro anno, mi sono divertito moltissimo. No, c'ho una faccia che non cambia mai. Io, anche sul set, con la premiata ditta, eccetera, Ciufoli, il mio collega calvo con i capelli postdatati, come si dice, mettevi una parrucca e lo cacciano via dal set perché sembrava un altro. Io invece, tu pensa, una volta facciamo una candy camera al semaforo per far capire alla gente che quanto si guadagna al semaforo, per cui ballavamo durante il rosso io e Ciufoli, facendo dei ballerini extracomunitari con la barba, con i denti finti, cioè i capelli lunghi, la panza, tutto. Stavamo vicino al Campo dei Fiori, io ho combinato così, vado a provare il travestimento, mi avvicino a uno e gli dico: scusa, c'è mica Chantolier dove all'autobus? E quello mi dice: Pino, ma come te sei ridotto? Questo non ce n'è, purtroppo non riesco a camuffare, soprattutto lo sguardo. E allora è divertente, però devo dire tale quale è una trasmissione divertentissima, deliziosa, si fatica come dei pazzi perché sono 12 ore al giorno di lavoro, e alla fine però il risultato si vede, insomma, sono dei grandi professionisti, e Carlo Conti è veramente un grande padrone di casa. Io sono team Carlo Conti da sempre, e ma tutti gli anni io una puntata di tale quale la vedo sempre a vedere in studio. Ma calcolo, perché lui pure a Sanremo, quando era ospite l'altro anno, un attimo per presentare per Domenica Inn, lui colse il secondo perché c'era Will Smith che io avevo doppiato in Ali, lui ha colto il mio sguardo dalla platea, ha capito e mi ha inserito all'interno di un dialogo che poi si è rivelato molto, molto divertente. Quella è l'intelligenza di trovare gli spazi giusti, di circondarsi di grandi professionisti, ringraziando Dio, io lo sono come lo è lui, ma io anch'io nella mia vita faccio questo, è il segreto per andare avanti. Anche in teatro mi circondo di attori pure più bravi di me e sono felicissimo di questo. Invece molta gente non lo capisce. Sì, un po' come le donne che si trovano le amiche più bruttine, però. Esatto. Pino, hai detto pure. Dicevo che hai detto che il viso non riesci proprio a mascherarlo in tutti i modi, perché la tua fisionomia esce sempre. Però io sono un po' Melagodogna, sì, un po' Ben Hill. Rimango, sono magro di persona, sono anche di alla gente, infatti per strada dice: ma cavolo, sei un bell'uomo, ho fatto un'altra, dice: beh, smetto, non è un complimento quello che mi dite. Sei un bell'uomo, non sembrava. Io sembro 7-8 kg in più in televisione. Hai noi tutti. Però Pino, non riesci a confondere i tuoi tratti somatici, ma a usare la voce in tanti modi, sì. E sì, quindi, sì. Allora, da domani 14:30 in diretta su Radio 24, tutte le domeniche ci parlerai di voce, di voce, Voice Anatomy, viaggio nei mondi della voce. Esatto, perché poi sarà una declinazione larghissima, un esercizio di stile sulla voce, non è? Perché la voce è veramente la terza dimensione, come dico sempre, è la prima cosa che arriva di una persona, a prescindere dai vari discorsi della fisicità delle persone, ma la voce è quella che ti racconta più cose di tutte. E allora la voce è un viaggio incredibile, che voce significa più grandi discorsi della storia, lo studio della voce attraverso i più grandi monologhi della storia, attraverso i più grandi attori viventi e non, attraverso i più grandi sociolinguisti che parteciperanno alla nostra trasmissione, attraverso uno studio della dizione, attraverso lo studio dell'impostazione vocale, attraverso al public speaking per i grandi manager e per gli uomini politici, per cui, e poi i doppiatori, ovviamente, i film, il cinema attraverso il linguaggio, gli adattatori, i direttori di doppiaggio, insomma è larghissimo, per cui ci avventureremo, ringraziando il cielo, sono anche circondato da straordinari professionisti come Filippo Cellini, mio amico e socio e capoautore e regista, Alessio Navarro, Damiano, c'è una relazione fortissima, perché è dura, ma sono 2 ore e mezza di trasmissione dove non c'è musica che può coprire tutto quanto, Radio 24 è dura. La parola. E allora la voce è bellissima, io metterei proprio come regola nelle scuole il teatro, perché ti aiuta a vivere meglio, e no, anche se non fai l'attore, perché quello ti porta anche all'impostazione vocale. Se ci fa caso, le persone, ci sono i noduli del professore, no, dell'insegnante, perché stanno tutti senza voce perché non sanno utilizzare la voce, mentre la voce è uno strumento che parte dalla testa, da su, e arriva fino a sotto, e c'è un diaframma che coordina tutto, è come se fosse un sassofono, e imparando ad usarlo tu salvaguardi anche quelle 2 muscolettini di 3 mm che si chiamano corde vocali. E grazie a tutta questa impostazione vocale che si può insegnare a scuola, perché è fondamentale. Se i nostri politici pure capissero l'importanza della vocalità, tu immagina soltanto se Braveheart avesse strillato ai propri uomini: andiamo a combattere l'uccidere il nemico, e dice: ammazza di te, io torno a casa da mia moglie, poi mi dici quando è finita la guerra. Beh, per cui la voce è fondamentale, non è tutto, ma è moltissimo. Che meraviglia, Pino, sai che è un'idea bellissima questa trasmissione? Io non vedo l'ora, non lo dico per fare lo spot, ma sono molto molto curiosa, e molto, anche perché poi io che sono abituata a usarla scoprirò un sacco di cose che sbaglio e quindi prenderò appunti e imparerò di nuovo. Non è la bella voce, sono le belle intenzioni che fanno, sono le pause usate giuste, non è la voce sempre bella, bassa, rotonda, quella deve portare a bioccate di sonno. Vabbè, però la voce deve essere mossa in un certo modo, le pause in un altro, le appoggiature. Ti ripeto, se tu vai a analizzare i grandi leader della storia, quelli che suonavano dal pulpito come i sacerdoti di un certo periodo storico, eccetera, eccetera, tu capirai da lì perché la gente stava sotto ipnotizzata. Perché è così, perché i grandi leader hanno usato sempre questo tipo di vocalità. Se tu senti il discorso che poi farò sentire anche in italiano domani di Martin Luther King su I Have a Dream, capisci che a parte di una modernità assoluta, ma è pazzesco. Beh, sono già ipnotizzata da te, Pino. Sono già, quindi, no. Quindi io domani alle 14.30 sono lì. Importanti, domani interverrà anche Giorgio Albertazzi sulla voce, una sociolinguista bravissima, eccetera, 2 doppiatori d'eccezione. Ti racconteranno storie, anche la gente potrà partecipare. Perché benissimo. È una sorta di voice box dove le persone lasceranno la propria frase famosa di un film, che sia Al mio segnale scatenate l'inferno, che sia Io dimenticherò di Presento Selli, che sia qualsiasi cosa, poi i migliori o anche i peggiori saranno chiamati a intervenire in trasmissione, a duettare con gli attori presenti, oppure addirittura chi sarà veramente giudicato il migliore alla fine potrà partecipare magari a un brusio di un film importante. Beh, non ci svelare troppo. Non ci svelare troppo. Domani 14.30, Voice Anatomy, Viaggio nei mondi della voce. Ciao Pino, noi ci sentiamo domani. Invece, grazie. Con il sabato il Villaggio Radio Tube, dopo il GR24 delle 17.00.